Mi ricordo il mio amico diceva manda l'alcol. Dai, ci penso sempre quando calco il palco. Mi riducevo così male che la chiave di casa finiva che dovevo darla a un altro. Vieni. Adesso ho una banconota per ogni volta che a gennaio ho acceso una canna al parco. Con il freddo sulla faccia e sulle mani, ma nel cuore c'avevo il fuoco di Giovanna d'Arco. E ora sto qua con la gente mia, quella che 10 anni fa stava con me per strada e sui binari, quella di cui dubitavi. Quei problemi cubitali, andavamo dritti dove tu giravi. Parole tagliate come le buste, difficile trovare quelle giuste. Se la testa è la marmita di un booster e la mattina a letto fra ti svegliano le fruste. Nel cuore c'ho le ruspe, provano a rimetterle in piedi ma ormai gli mancano le fondamenta. Visto che ogni giorno qua gronda, merda, la ruota della sorte frate non rallenta. Ero meglio prima perché ero come te, adesso giro l'Italia con l'agenda. Dopo aver girato l'Europa con la tenda, quale promessa frate speri non mantenga. Leggenda. Adesso sulla vetta come un eremita, quando stacco la base è incenerita. Fino a quando questo mondo esisteranno delle verità, tu sentirai la mia voce che le grida. Qualunque cifra non cambia chi sono, faccio botte con i fantasmi e ci suono. Per gli fammi sono bestia tritolo, a chi mi ama chiedo perdono. Però frate, tornare indietro non se ne parla, non se ne parla. Vivo la vita solo per raccontarla, per raccontarla. Chi pensa di conoscermi sbaglia, sbagli. Perché essere me non puoi sapere com'è, no, te, no. Essere me non puoi sapere com'è, no, te, no. Essere me non puoi sapere com'è, no. Tornare indietro non se ne parla, perché essere me non puoi sapere com'è, no. Se ricordo com'ero, no a dire il vero, ma ricordo che scrivere un foglio per vivere il sogno era ciò che volevo. Ora per qualche zero, pensi che sia meno sincero, che abbia fatto di meglio. Ne riparleremo dopo quando mi sveglio. Stacco ora lo faccio per un salto di segno. Il mio nome in alto come un vanto un cimelio. Salgo di un altro livello, cambio la mia vita per i rap in un banco di pegno. Conto gli amici che ho perso, ora che è tutto complesso. Ora che sul palco un impegno mi sgobbia la testa, ma io manco mi ingegno. Faccio la tempesta con un lampo di genio. Tutto il resto è stress, è stare sempre a galla nella kermesse. Gli occhi tipo feritoia, per l'insonnia, per la paranoia di passare il test. Ma che se il futuro non mi appare saldo, so che per adesso mi sta carezzando. E io non mi guardo indietro, meglio un'ora in alto di crepare e non fare il salto. Fugo da mille domande, metto il turbo, loro picchiano alle gambe ma io reggo l'urto. Il passato è distante, dentro è buio, costruito col sangue, dietro burto. Ora perdo il conto dei grammi con quello dei grammi, ho consumato tipo metro cubo. Per l'infamio solamente Fauci dal lupo, se mi ami bacio e saluto, crudo. Tornare indietro non se ne parla, non se ne parla. Vivo la vita solo per raccontarla, per raccontarla. Chi pensa di conoscermi sbaglia, sbagli. Perché essere me non puoi sapere com'è, no, te, no. Essere me non puoi sapere com'è, no, te, no. Essere me non puoi sapere com'è, no. Tornare indietro non se ne parla, perché essere me non puoi sapere com'è, no.